Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Finalmente qualcosa che movimenta la monotonia del mio viaggio e è il signore che va in treno con le canne da pesca. È interessante vederlo con gli stivali, arrivano a mezza coscia, con il cappello con tutte le esche, gli ami, le mosche e con il contenitore delle canne. Sì, è il pescatore. Il pescatore contrae una volta in un viaggio precedente che inseguiva da anni un pesce per pescarlo e poi ributtarlo in acqua, perché è uno strano pescatore. Il pescatore che pesca ma non porta mai la sua preda a casa perché la ributta in acqua. A lui basta possederla quell'istante della slamatura e poi il pesce felice ritorna alle sue acque e lui ha una conquista in più da segnare come una tacca sul manico della sua canna da pesca. Finalmente ce l'hai fatta? Sì, ce l'ho fatta, ma la storia è nata così. Volevo andare a pescare alla sera. Però è successo un contrattempo, è arrivato un cliente, ho dovuto svolgere logicamente il mio lavoro ed ero attaccato da quella fregola strana che capita ai pescatori e ai cacciatori. Alla mattina alle 4 del giorno dopo mi sveglio, vado a pescare nel fiume, nel solito sito. Ti emoziona per ripensarci? Sì, mi sta emozionando ripensarci e al secondo lancio ho preso la trota. Emma, sono 6 kg e 8 etti. Quant'è che le stavi dietro? Quanti anni erano? Dunque, forse era un anno che la seguivo questa mosca. È sicuro che era sempre lei, inconfondibile? Era sempre lei, inconfondibile. Madame era sempre lei ed è stata liberata con tutte le cautele possibili, con una mossenza ardiglione. Quindi non si è rovinata per niente? No, guai. Cioè che impressione ti faceva? Ce l'avevi in mano dopo un anno che la inseguivi? Mi sentivo un po' come Santiago nel Vecchio il Mare, un po' come i racconti di Hemingway, un po' come le grandi prede, ed è stata un'emozione importante perché mi ha dato una grande soddisfazione. Lei ti guardava, sì? Sì, mi guardavo con degli occhioni da marmorata. Impossibile non guardare la marmorata negli occhi, sennò non riuscirei mai a ucciderla. Sechini quanto era grande? Cioè, lunga quanto? Sarà stato un 70-80 centimetri. Beh, un bel pescione era. Sì, un bel pescione. Stupenda, con una livrea stupenda. Non ti è venuto nemmeno per un istante la tentazione di metterla in padella, no? No. Beh, certo. È cannibalismo, no, quasi. È quasi cannibalismo. Cioè, quando sei a un contatto con un pesce così, dopo che tu l'hai seguito, studiato, è stato il suo comportamento per quasi un anno e ti ha rotto la lenza per 3 volte, non puoi ucciderlo. Cioè, sarebbe stato uno spacco inutile. Tu che conosci un po' i pesci, c'è possibilità che lei riabbocchi a un amo? No, ormai una volta abboccata e liberata. Spero non fa, che non mai più nella vita. Altro, che muore di vecchiaia. Ormai sì, diciamo. Praticamente come tu l'avessi vaccinata adesso, pensala così. Sì, come se l'avessi vaccinata. Come se l'avessi vaccinata perché qualcuno ha saputo della cattura, perché tra i pescatori ci sono tanti che controllano, mandato dello stupidotto. Cioè, stupidotto è un eufemismo. Perché ti hanno detto che coglione, hai ributtato un pesce così bello. Mi hanno detto, ma che coglione, hai buttato via un pesce così bello, potevi mangiarlo. Ma guarda che i negozi, le pescherie ci sono i pesci, che ho detto. Piene di pesci, certo. Piene di pesci, ci sono delle pescherie che sono piene di ottimi pesci. E poi una marmorata così nelle nostre zone è quasi una specie rara e non si... Forse si era già diffusa la leggenda che tu da un anno correvi dietro a questo pesce, quindi era entrata ormai nel mito quest'idea. Sì, sì, era entrata nel mito, infatti sono l'elettricista pescatore io. Dal mio punto di vista, come la vedo? Mi ricordo questa storia, me ne avevi parlato nell'edizione precedente del Treno Va. Veramente tu penso che abbia salvato la vita questo pesce? È stato un momento importante, quasi un rito. Sì, avendo la tua abboccata una volta, lei non abboccherà mai più. Quindi è fuggita a uno dei rischi principali di un pesce, quello di essere pescato. Sì. Anche perché è stato un contatto particolare, cioè quando ha boccato ha cominciato l'alba, il sole stava sorgendo, quindi c'è stata un'apoteosi di emozioni. Ce l'hai tirata su praticamente, vedi la sua silhouette, lo sfondo, il sole che sì. sorgeva dalle acque. Beh, è una cosa sì. epica, un momento magico. Sì. È un rito sciamanico, non è una pesca, capito? La pesca con la mosca è qualcosa di sciamanico, è una filosofia. Ma la mosca era una mosca vera o mosca finta? Mosca finta, costruita la sera prima. Con che l'avevi fatta la mosca? Con delle piume del pelo di cervo, di vari colori, con una testina rossa, uno spimmer classico Black Nose, classico da marmorate, su un amo di generose dimensioni. Questo è conservato nella scatola dei ricordi. Ma questa è la incornice, la molesca con cui hai pescato la marmolata? No, la metto in una scatola dove metto a dimora tutti i miei ricordi. Quindi la mosca fatta col pelo di cervo, perché proprio col pelo di cervo? Perché ha una silhouette particolare, non amo tanto i materiali sintetici, ha un comportamento in acqua molto sinuoso, molto morbido, fluido. Tu mischiando colore nero, bianco e marrone dai una sembianza di un vairone, di un piccolo pesce, dove ma cosa immagino che sia la mosca? Un insetto o un altro pesciolino? Quando la vedi? Pesciolino, in questo caso si parla di uno streamer, un piccolo pesce. Somiglia a un piccolo pesce. Quando un piccolo pesce, diciamo, un piccolo pesce di dimensioni variabili a seconda della dimensione dell'amo. Perché in acqua diventa trasparente, sembra quasi di vedere un pesciolino. No, non diventa trasparente, perché diventa con un corpo magari in argento, dorato, e questo si muove con un nodo particolare col flusso della corrente. Che sembra vivo. Sembra vivo. Beh, bello. Certo, ha rivelato un grande segreto. L'esca fatta col pelo di cervo. È una cosa che... No, guarda, è vecchia come il mondo. Ormai nella pesca mosca, Gianluca, non c'è più niente da inventare, c'è solo da rimodernare. Sister knows the way I feel when practicing. I take a spill, she never laughs when I am hurt. She shows me how to roll in the dark. Cries of terror and delight as they look up into the light. Sighs of wonder and suspense when I jump off the highest fence. Avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. La pesca con la mosca, si parla di origine romana, di origine macedone. La pesca con la mosca, ci sono dei trattati. Ci sono anche mosche da salmone e da trota che hanno centinaia d'anni. E con cosa le facevano prima le mosche? Guarda, le facevano con le piume di uccelli rari, ad esempio quelli da salmone, erano i baronetti, con, non so, col tucano, vari piume. Adesso si fanno con piume di volpelli, di volpe artica, colli di gallo ancora, corpo di lana o di seta, o di piume di pavone. Beh, è un'arte, un'arte quasi zen quella di fare le mosche, mica lo immaginavo io, che c'era dietro sì. Tutta questa scuola. Io pensavo uno andava nel negozio di pesca, diceva mi dia una mosca, la comperava e andava a pescare. No, io amo costruire le mosche. Sto bestemmiando, lo so, ma lo dico apposta così mi racconti. Sì, no, qualche altro segreto. Amo costruire le mosche perché preferisco costruirmele io la con cui voglio prendere un pesce, anche perché l'emozione è superiore. Acquistare una mosca non mi dà soddisfazione. Non c'è quella filosofia zen dove c'è la preparazione alla cattura, perché la preparazione alla cattura, la preparazione alla pesca comincia quando tu stai costruendo la mosca per quel determinato pesce, una mosca sola, per vedere se l'accetta. Poi dopo sta al destino e al momento per dover prendere il pesce, anzi non è il pesce, noi che prendiamo il pesce, ma è il pesce che decide di abboccare, come una donna, è lei che decide. E questo dà soddisfazione. Diceva, per farla decidere ci vuole un tuo impegno, mica vuol dire invita una donna a cena, decide lei, sì, decide lei, ma invece di andare con te va con altro, che evidentemente è stato più bravo a prospettargli la serata, no? Questa è la mia filosofia. Cioè, infatti in questi momenti tu dici sì Daniele, hai preso la posta, sono bravo, sì, ti ho detto. Ma però c'è uno studio, c'è interesse, c'è, sono tanti momenti, tanti frangenti che compongono il fine della cattura. Beh, sai, il pesce ti sceglie per quanto sei stato bravo, di te vede solo l'esca alla fine, mica vede altro, finché non lo tiri su vede solo l'esca. Come si muove l'esca, quel momento, quel frangente particolare che ti dà l'emozione. Infatti è la stessa cosa quando io pesco il salmone atlantico, ti ripeto come l'ultima volta, ed è un pesce difficilissimo, l'attimo in cui il salmone morde la mosca è pathos, è eros, perché è una scossa, è il mitico flash salmon. La botta del salmone così è, com'è? Come funziona? Guarda, tu peschi il salmone lancing a 45 gradi, fai tendere la lente, la mosca, il salmone naturalmente viaggia col flusso della corrente, puoi attendere un'ora, due ore, tre ore. Ma il salmone va controcorrente tanto, no? O sbaglio? Sì, infatti, se controcorrente peschi a valle. E puoi attendere anche un giorno, due, una settimana. Solo quando senti la botta vuol dire che è fantastico. Quando senti la botta è qualcosa di... Lo so, me ne rendo conto. È il salmone che... Perché tira forte il salmone quando... che immagino, andando lui controcorrente e avendo la forza della corrente, la mosca, sono due forze che si sommano. È un bel impatto, come uno scontro frontale fra due automobili, penso, no? No, non proprio così, non sono tarpo, non marlina, mosca. Anche il salmone atlantico dà un'emozione, anche perché devo usare o la coda galleggiante o quella fondante. Ci sono vari tipi di lenze per affrontare il salmone in base alle temperature dell'acqua, in base al periodo della stagione. Perché il salmone atlantico si può mangiare su una mosca piccolissima o su una mosca grande, lunga 20 cm. È questo che ti dà emozione, ti dà interesse. Poi d'altronde la pesca la prendo come filosofia, come zen, non la cattura fine a se stessa, ma vivere il momento della cattura, il momento della pesca. Non servono quelle stragi, come ti dicevo l'ultima volta, o quelle tecnologie iper accentuate. Serve solo tanta pazienza e buona volontà, del resto come nella vita. Va bene, sono contento che ci sei riuscito, è stata una bella storia. Un po' emozionante, però è stata una cosa che sto vivendo dal giugno ultimo scorso. È una cosa pazzesca. Ma adesso dovrei porti un altro obiettivo, che sennò che senso? Sì, adesso c'è un altro obiettivo, c'è un altro lucio grosso, sempre con la mosca che sto curando. Da quanto lo segui? E questo qua è un amore più fresco, sarà un 6 mesi. Vabbè, 6 mesi. Gli hai dato già un nome al luccio? Eh? Gli hai dato già un nome? Sì. Come il drago. Il drago? Il drago. Vabbè, chissà, quando ci rincontriamo la prossima volta mi racconti la. Con chi si becca il drago? Il drago cosa? Sì. Sto creando una mosca artificiale su un tubicino di plastica, dove tu gli avvolgi sopra delle piume, può fare passare il filo nel tubicino dietro, quando uscirà leghi un amo e poi cominci. Vabbè, adesso stai preparando l'arma totale, poi vediamo se ce la fai a prenderlo. E anche il luccio naturalmente poi lo ributti subito dentro, certo. Sì, lo ributterò sempre dentro subito immediatamente. Quindi avrai salvato la vita anche a un altro luccio, che una volta che passa per il tuo amo è come il vaccino, c'ha gli anticorpi colpifero che riabbocca. Quindi spero che non abbocchi nessun altro, quell'orgoglio e il possesso. Va bene, come si dice, non lo so, in culo alla balena, non so bene. Bravo, in culo alla balena, va bene. Ma anche a te, caro, buona Grazie, giornata. Grazie, buon luccio, ciao. Ciao, ciao. Oggi è il giorno dei ritorni di fiamma. Ritrovo Lady Pink. Lady Pink è sempre Lady Pink, quindi è sempre una nuvola rosa di cipriosa allegria sprofondata nel suo sedile, ma qualcosa di diverso nei suoi occhi mi fa capire che lei c'è come una sorta di rassegnata pacatezza. Chissà cosa sarà cambiato nella vita di Lady Pink. Mi hanno detto che giravoce che hai avuto una svolta epocale nelle tue relazioni, è vero? No, è veramente una costante della mia vita. Vivo con gay, trans e drag queen. Sono l'unica gioia della mia vita. Io quando voglio essere coccolata ho costruito il mio regno. Un regno fatto di piume, strass, lustrini e paillette. È una scelta obbligata o diciamo avevi alternative nel campo diciamo delle relazioni? È una scelta che è capitata, non c'è scelta. Alla fine, forse perché non ho sovrastrutture, forse perché non sono giudicante, alla fine mi ritrovo a avere la casa piena di gay e ne sono contentissima. Vorrei che Ozpetek venisse a cena o a pranzo a casa mia, secondo me si ritroverebbe nella scena dei suoi film. Delle fate ignoranti. Sì, noi non siamo fatte, siamo solo ignoranti, ma ci piace lo stesso. Ma tu sei l'unica donna del giro praticamente. Sì, assolutamente. Beh, ovvio, cioè se mi devo costruire un regno non devo avere... E come ti chiamano? La Pink? Come ti chiamano? No, la regina mi chiamano. Ah, la regina. Beh, grazie. Sì, no, dove trovi degli uomini ti chiamano la regina? Infatti, io sono la regina. Cioè tu c'hai il trono proprio lì, capito? Ti baciano la scarpetta. Sì. Sì, assolutamente. E poi è bello l'abbraccio di un uomo che non ha secondi fini. E quindi è un abbraccio di cuore, un abbraccio. Vabbè, scusa, un amico non ti può abbracciare senza secondi fini. Sì, però è diverso. Invece è una. Cioè, senti qualcosa puro. Di diverso quando ti abbraccio un amico. Sì, assolutamente. Cioè, anch'io sono diversa. Loro sono diversi, io sono diversa. E quindi c'è un abbraccio che è più sì. Vero. Cioè, non che gli altri non siano veri, però è diverso. Vabbè. Non ci sono le barriere sessuali, sostanzialmente. È un abbraccio di essenza. Senti sì, che sì, ma io trovo che un abbraccio così lo può dare anche un amico. Un'amica. Ho tante amiche, le abbraccio, ciao, come stai, fine. Ma lo so, però... Chi se le vede? Sono affinità elettive. Every time. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Mi dici come passi queste belle serate? Tu stai sul trono, tutti intorno, che fanno? Beh, cucinano per me, mi coccolano. Cioè, hai risolto anche il problema della colf, diciamo la verità. Assolutamente. Ti puliscono anche casa? Assolutamente. Guarda, sabato scorso due carissimi amici, una coppia consolidata nel tempo, con il furgoncino sono venuti e mi hanno fatto il cambio di materasso, è stato bellissimo. Però si sono lamentati dicendomi che questi lavori sono lavori da uomini, non da, da ragazze, ecco. Però nonostante tutto erano belli piazzati, bellissimi, tutti fisicati, palestrati. Tutti palestrati, però non volevano portarti il materasso. No, ma perché comunque sono lavori da uomo, non da donna. Vabbè, ma questo è discriminatorio, scusa, che vuol dire? Sì. Vabbè, però alla fine, vediamo i campi in cui tanto ti sono utili. Allora, ti fanno la spesa e ti cucinano, ti fanno i lavori pesanti in famiglia, poi che altro? mi riempiono le giornate di affetto e di attenzione. Anche perché tu non c'hai niente da fare tutto il giorno, lavori, non, come ti mantieni? Sì, certo, mi mantengo, però poi alla fine la sera... Ah, ecco, le serate. Le serate. E dimmi una serata tipica di te con i tuoi amici. La sera burraco, assolutamente. Ah, giocate a burraco, giocate. Sì, la sera... Con i tavolini, metti un po' di tavolini e fate i tavolini... No, la cosa meravigliosa è il cerimoniale prima, perché c'è un cerimoniale prima di arrivare a giocare a burraco, cioè la cena. Ieri sera appunto abbiamo fatto la serata burraco e siccome siamo delle vecchie zitelle abbiamo mangiato il minestrone e le pere cotte, cioè mi sembrava di essere veramente alla residenza Anni Azzurri, dove ci mancavano le prugne, capito? Il catetere, poi avevamo fatto tutto. Cioè, avete fatto la minestrina, poi le pere cotte. Le pere cotte, poi E la borsa dell'acqua calda, no, scusa. Avevamo acceso il camino, bravo, grazie per il dettaglio, ecco. Abbiamo acceso il camino, i gatti che girano, cioè certo. Presente proprio le vecchie zitelle, ecco. C'avete le pantofole naturalmente. Assolutamente. La vestaglietta, sì. Quella lì trapunta rosa, così, ogni tanto e quindi poi abbiamo iniziato a giocare a pigiamino di flanella, sarà ora che lo tiri fuori. Beh, quello un po' più avanti. Quello più avanti. Adesso la felpina di ciniglia, esatto, queste cose qua. Esatto, esatto, esatto. E quindi poi si gioca a burraco fino all'una e mezza di notte, dipende. Che pazze che siete, certo, una vita così dissoluta. Cosa bevete? Il rosolio, cosa bevete? Vedi, quando andiamo un po' più avanti con la stagione solitamente ci facciamo a metà serata il punch, d'estate invece il gelato con il caffè col gelato. La coppa del nonno praticamente. La coppa del nonno, ormai siamo veramente da ricovero. Invece la domenica, che è una cosa bellissima, perché vabbè io mi... Beh, un climaterio diciamo accelerato praticamente il tuo, già sei ormai oltre la soglia. Diciamo di sì, ma sai, non sono sposata, non ho figli, eccetera, mi devo preparare la strada per una vecchiaia comunque. Quindi è un training all'ospizio praticamente, la certo, tua vita. Certo, perché almeno posso fare affidamento. Ma ti ho conosciuta, cari, una ricercatrice di uomini, una mangiamaschi assatanata, ma sei risolta a fare le prove d'ospizio con degli amici, ma con le amiche. No, vabbè, ma quelli, poi, la mia vita sentimentale, per l'amor di Dio, c'è, funziona. sì, l'immagino. Pensa in questa cornice, hai un fidanzato, vengo a trovarti stasera, vi trova lì tutta in vestaglia, col ponce, con l'odore di minestrone nell'aria, con le pericotte che fanno bene all'intestino, a giocare a burraco, ma dai, gli passa esatto, ogni fantasia. Esatto. Vabbè, una non può essere sempre pompata mille. Ma così è sottopompata, guarda, è sotto pressione. No, invece no. Invece è una gomma sgonfia. Ritrovi il nido così, capito? Gli affetti, l'amore. Ritrova il nido, ma è pieno d'uccelli, scusami il termine. Ma... Sì, che volano, uccelli tanti che volano, però in alti, nel cucolo, nel nido del cucolo, dall'altra parte, Vabbè. Vabbè, ma quelle sono scelte. Sono scelte, sì, sono scelte, mica opinabili, ma... O una o l'altra, non puoi pensare così poi dopo avere una vita sentimentale con un fidanzato. Dice, vabbè, cara, casa tua è diventata la cage aux folles, divertiti, ma che vuoi da me? No? No, ma invece no, funziona. Con alcuni è funzionato, poi non sono funzionata io, mi metto proprio in discussione, è colpa mia. Ma sei in una fase di decadenza mentale, fammi capire. No, vabbè, sono... Ti disprezzi, non ti vuoi più bene, come dicono. No, io mi amo tantissimo, proprio perché mi amo, mi attorno di persone che mi amano e quindi che mi fanno star bene. Ma sei fatta le mesh azzurrine, queste cose qua? No. mia nonna aveva quella tinta grigia, cioè, è grigio azzurro, azzurro tendente al violetto, che oggi però lo metto alle ragazzine che vanno al liceo. Ho la metropolitana piena di ragazzine la mattina, piccole, dai 13 ai 17 anni, c'hanno tutte le mesh azzurrine come le vecchie una volta. Capito? Ma non l'hai mai viste? Tutte, c'ha tutte i capelli danno sul quelle venature sul violetto, sull'azzurrino, sul rosa. Che una volta le parrucchiere di paese alle signore anziane gli facevano questa sorta di viraggio. Mi ricordo, le nonne andavano e uscivano tutte un po' azzurre, un po' violette, non capivi come mai. E perché gli mettevano l'argento per schiarire la tinta? E quindi per togliere praticamente il giallone, no? Gli si sì, anche a me, io quando vado a fare i capelli dal parrucchiere, nota catena di franchising, le signori lì sono tutti, capito? Sono tutti molto acchittati e molto trendy, dicono pian piano al signore lo shampoo con l'antigiallo, è uno sciampetto viola che serviva a fare quei capelli bianchi che sembrano quelli di Mastro Geppetto, capito? O di Polentina lì. Il viraggio è quello, sappilo. Comunque queste le serate con gli amici sono le serate migliori, che poi io abbia questa maggior frequentazione di gay è un altro discorso, però no, mica dico c'è niente di strano, perché però sei riempita a casa, cioè è diventato un club il tuo, non è più una casa, c'è molti accessori leopardati, immagino, a casa tua. No, leopardati no, io sono più sul strass, lustrine e paillette. Niente di leopardato, vabbè, solo perché volevo immaginarmi un po' l'ambiente. Gli interni. Bene, tutto colorato, gente che va, gente che viene a qualsiasi ora del giorno e della notte, quando vanno, non so, a fare serata, vengono poi a prendere il caffè prima di andare a dormire, questo alle 2 alle 3 di notte. Le drag queen, diciamo, in costume di scena vengono da te? Assolutamente sì, ma io ho delle amiche che sono bellissime, tra l'altro alcune hanno anche vinto la gara nazionale. Il premio fedeltà. Mariah Queen, poi Aloe Vera. Ah, Mariah Queen e Aloe Vera vengono a casa tua? Certo, sono bellissime. Guarda, hanno dei costumi meravigliosi, glieli vorrei strappare la dose perché sono bellissimi. Vabbè, poi hanno dei fisici incredibili, perché comunque hanno un fisico bello, degli stacchi di coscia che avercene da donna, no? Però sono coreografiche, poi sono libere, mi divertono, mi piacciono. E quindi perché stare a casa con magari qualcuno che si guarda, che ne so, la partita e si ammosci sul divano? Invece no, Raffaella Carrà ha tutto volume, un po' di Loredana Bertè e noi passiamo la serata, tu scherzi, tutta la vita. Vabbè, sono contento, guarda, Lady Pink, che hai trovato una tua dimensione. Piuttosto che vederti disperata, alla ricerca continua, piena di delusioni, questi uomini che non erano mai all'altezza, non capivano, non arrivavano mai al dunque, ti ingannavano, almeno adesso è un clima di trasparenza totale, ti trovi in un ambiente che non c'è niente da nascondere perché è tutto evidente, è meglio così, no? Sì, no, ma questo è sempre stato. Poi ci infilo le mie relazioni che sono catastrofiche, no? Sì, quelle penso che ce ne infilerai sempre meno, credimi, se il contesto è questo, rassegnati, ma è una scelta. Sarà graduale, capito? Non te ne accorgerai, come la perdita dell'intelletto. Io spero di rincoglionirmi un po' per volta, senza accorgermi. Ogni giorno mi manca un pezzo e un giorno oltrepasso la soglia sono rincoglionito. Fine. La stessa cosa. Te la lussura pian piano te la stai perdendo giorno dopo giorno. Entrai in questo zuccheroso mondo di felicità, di allegria, di euforia e farai la dispensatrice di felicità e amministratrice dei rapporti sentimentali della tua corte di ammiratrici e sarà perfetto. Brava Lady Pink, hai trovato una dimensione veramente fantastica. Anche perché l'hashtag è più glitter per tutti, se ci fossero più glitter nella vita degli altri probabilmente vivremmo molto meglio tutti, non prendersi sul serio. Speriamo in un futuro glitterato per tutti e saremo felici. Grazie Lady Pink, a presto, alla prossima, ciao. Ciao. Hard to be ignored. When I look at you, you look so bored. My baby, my darling, I've been taking a beating. Well, alright, it's okay, it's okay. We all get the slips sometimes every day. I'll just keep it to myself. Avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Una cosa un po' mi turba e mi disturba e devo dire che in qualche maniera condiziona e inquina la mia divertente e divertita maniera di approcciare le persone lungo il mio viaggio e raccontarvi, farvi ascoltare quelle che sono le nostre chiacchiere. È il fatto che ormai qualcuno mi riconosce. Sì, ormai sono anni che viaggio nel treno e la gente dice: ah, ma lei è quello che sta nel treno, a lei quello, adesso le racconto io qualcosa. Ecco, sono le persone, di solito non vi faccio mai ascoltare, le scarto, perché la persona che sa già che comunque racconta qualcosa che diventerà un evento radiofonico è la persona che non mi interessa. Però questa volta faccio un'eccezione. Sì, questo signore mi ha detto: ah, l'ho riconosciuta, lei è un giornalista, è quello che sta nel treno. Così ho capito, sono quello. Allora adesso le devo raccontare qualcosa che mi è stato rubato. Vabbè, una bella storia, ho subito un furto. Poi in realtà ce l'aveva con un mio collega e vi faccio ascoltare esattamente quello che mi ha anticipato, perché voglio capire questo signore perché ce l'ha tanto con un mio collega. partiamo dall'idea che le hanno fatto un furto, però non ho capito cosa le hanno rubato. Sì, allora è fatto un furto. È un furto, non è un furto materiale. Un bene immateriale le è stato portato. È un bene immateriale che riguarda anche la dignità di una persona. Quindi è difficile anche denunciarlo come furto. No, io volevo solo segnalarlo, più che altro. Che le hanno rubato? No, praticamente mi hanno rubato la stima di una persona, la fiducia, la credibilità, capisci, che io avevo in questa persona. Cioè le hanno portato via la donna, questo in sintesi? No, no, la stima che avevo in questa persona, che è un giornalista. Ah, un giornalista, in che senso? È un suo collega. Ah, beh, può capitare, ecco. Siamo esposti a questo rischio di perdere la stima, noi, capito? D'altronde fa parte, sì, dei rischi del mestiere, non si può andare d'accordo con tutti, questo deve pensarlo, sì, come esprimiamo opinioni molte volte, l'opinione a qualcuno sta bene, a qualcuno no. No, ma non il fatto, cioè, siccome posso spiegarle? Certo, sono qui. Allora, io ero un incontro che è stato fatto in presentazione di un libro di Aldo Cazzullo. Sì, quello sui figli. Sì, vabbè. Metti via quel cellulare. Beh, è un libro che sta andando molto in questo periodo. Sì, sì, sì, però sì, lui predica bene, razzola male, capisci? Ah beh, razzola male, primo in che senso, scusi? No, perché io, siccome io lavoro, sono un promotore culturale, mi occupo di eventi, iniziative così. Sì. Perché io sono veneto. Sì. E allora gli ho proposto un'iniziativa che ha promosso e sostenuto un'iniziativa culturale la Regione Veneto. Io sono stato lì a Padova e ho parlato con lui, lui mi ha dato il telefono, mi ha scritto il suo telefono. Il giorno dopo mi aveva detto, sì, vi chiami pure domani, che noi ci mettiamo d'accordo, così mi illustra l'iniziativa, il progetto culturale della Regione Veneto. E lui, praticamente, quel numero lì scritto da lui era falso, capisce? Ma sarà sbagliato, ha scritto male un numero falso? No, è impossibile, perché l'ha scritto lui, come io non sbaglio mai il mio numero. Quando vabbè, il cellulare, ma a me capita invece, ma uno quando andiamo a presentare un libro, siamo circondati da persone, cioè abbiamo la pressione, può capitare che ha scritto male, cioè non ha senso che scriva il numero falso, ma io gli avrei detto, se non volevo parlare con lei, guardi, chiami l'ufficio stampa dell'editore, parli con lui. Gli ha dato il suo numero, avrà scritto più in fretta il numero falso, cioè mi sembra assurdo che dà un numero falso, se sarà sbagliato. Pure io non... Comunque è una persona facilmente ritracciabile, va su Twitter, chiama il suo giornale, chiama l'editore, non è una persona che le persone pubbliche poi alla fine uno le rintraccia, se non loro direttamente chi le rappresenta. Sì. Capisca che non ha senso che l'idea. E perché dice le ha rubato la dignità? Dignità che vuol dire? La dignità, la fiducia di lui che. Va per una cosa così banale, lei toglie la fiducia a una persona, scusa. No, perché io quando do il mio numero lo scrivo, ma è scritto sbagliato, e non ho mai scritto. Ho capito, ma lei a quante persone, d'altro, sa quante persone chiederanno un numero a Cazzullo quando va in giro a presentare il libro? Centinaia. Quando presento, vado in giro per i comuni, dagli sindaci, mi dicono la segreteria del sindaco, mi lascia il numero. Mai ho lasciato il numero, ma lo scrivo. Ed è un fenomeno, io invece penso che il mio numero molte volte mi capita di darlo sbagliato, scremare l'email, mi capita. Quando uno ha molte cose in testa può capitare, cioè non mi sembra una colpa capitale da togliere la fiducia a una persona. Ma più... io non mi aspettavo, perché ho parlato anche col ministro, dopo è venuto Franceschetti, mi ha dato il numero. Che si chiama Franceschini, però, non Franceschetti. Vede che lei si sbaglia. Franceschini, ministro. Ma vede che si sbaglia anche lei, confonde il nome di un ministro, quindi può capitare anche lei di sbagliare. Sì, però, noi umani siamo persone che sbagliano, non pretenda dagli altri l'infallibilità. Ora, no, infallibilità. Il caro Cazzullo avrà scritto il nome velocemente fra le tante persone che chiedono qualcosa. La presentazione di un libro, guardi, non è una cosa piacevole, è una cosa che si fa volentieri, perché raccogliamo l'impressione del nostro lavoro. Per fare un libro ci vogliono mesi, se non anni, per qualcuno. Uno scrive un libro, poi l'editore ti dice devi andare in giro a presentarlo. Sì. Le prime volte ti dà gusto, le altre volte diventa un lavoro. È un lavoro, perché ti trovi sempre davanti tanta gente, devi dire sempre più o meno le stesse cose, rispondere alle domande, prendere il treno, tornare a casa, che si fa tutto spesso in un giorno. Che nella folla che ti... A me, io sono andato anche ultimamente a fare una presentazione, non di un libro ma di un film. Mi hanno circondato persone, mi chiedevano, mi dia la sua mail, vorrei, come faccio a contattarla? Io dicevo chiaramente, no, non mi faccio contattare, non ho tempo per parlare con lei. Lo dico che non ho tempo. Se poi qualche volta uno generosamente lascia un recato, se gli interessa, può essere che era veramente interessato alla sua iniziativa, ma gli scrivo una mail, scusi, lei in qualunque articolo di Cazzullo sotto vede scritta la sua mail. Gli scrivo una mail, dice, guardi, sono quel signore che le ha proposto questa cosa, questa è la proposta. E poi lui, se gli interessa, le risponde. Se gli interessa, cortesemente dirà, guardi, in questo momento altro da fare. Non sono persone rintracciate, no, lo dico per smontare una sua angoscia, che possa pensare che magari c'è qualcosa di personale. Dopo quella presentazione avrà dovuto farne un'altra, di solito si fanno a catena 3-4 presentazioni, poi dovrà tornare al suo giornale, avrà dovuto scrivere un pezzo, avrà anche lui la sua famiglia, i suoi problemi. È concitata la vita di un personaggio pubblico, non che sono persone che vanno compatite, è una scelta, però il personaggio pubblico è abbastanza pressato, le persone vogliono dirgli qualcosa, fargli proposte. Il 90% delle volte sono proposte che non vanno a vantaggio del personaggio pubblico, ma delle altre persone che in qualche maniera si prendono un pezzettino della sua notorietà, della sua capacità di promuovere. Non, ripeto, non voglio promuovere la categoria, per dire che alla fine siamo tutti esseri umani. Può capitare di scrivere un numero sbagliato, come lei ha sbagliato il nome del ministro chiamandolo Franceschetti. Vede che siamo tutti capaci di errori. Si è tranquillizzato, si è tolto la sua angoscia adesso? No, sì, sta più sereno adesso. E vedi, è stato terapeutico in fondo questa chiacchiera. Va bene. Grazie, grazie, buona giornata, arrivederci. Ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno da @radio24.it.